Topic of our Dhamma talk this evening is sharpening the controlling faculties. Allora, l'argomento del discorso di Dhamma di questa sera è il rendere più acuti le facoltà di controllo, acute. And what we discussed yesterday was the very basic instructions that the Buddha has given with regard to Satipatthana. E quello che abbiamo visto ieri sera erano le istruzioni molto di base, così come sono state fornite dal Buddha riguardo ai Satipatthana. Namely, one abides contemplating the body as a body, or the body in the body, ardent, clearly comprehending and mindful, and putting away, or having put away, covetousness and grief for the world. In altre parole, per ripeterle, allora erano il primo Satipatthana, quindi il meditante o il monaco contempla il corpo come corpo o nel corpo, ardente, comprendendo pienamente e consapevole, mettendo da parte ogni desiderio e ogni pena per le cose del mondo. And so, I mean, the same instructions also apply to feelings, apply to the mind and to dhammas. Poi le stesse istruzioni si possono poi applicare per quello che riguarda la contemplazione delle sensazioni, della mente e poi dei dhamma. It is in the context of this passage that yesterday we explained what is meant by ardent energy, and then also clear comprehension, and then mindfulness, and then in connection with mindfulness faith, effort is mentioned already, and then concentration and wisdom. And with this we've explained in very basic terms the five controlling faculties. Quindi ieri abbiamo già spiegato cosa si intende per questa energia ardente, cosa si intende per la chiara comprensione, cosa si intende per consapevolezza, e in relazione alla consapevolezza abbiamo anche parlato della fede, poi dell'energia, questo l'abbiamo già detto, e della concentrazione, e con questo quindi abbiamo visto, e della saggezza, scusate, con questo abbiamo anche visto quali sono le cinque facoltà di controllo. So, those five controlling faculties are known as controlling faculties because they exercise control in their respective sphere, or we can say sphere. Si chiamano proprio fattori o facoltà di controllo perché esercitano un controllo nelle loro rispettive sfere, diciamo, campi d'azione. So, the first sphere is that of resolution, and so the controlling faculty of faith then exercises control over its opposite, which comes in the form of indecision or disbelief. Allora, la prima sfera è quella della determinazione, quindi risoluzione, nel senso di essere risoluti o determinati, e questa, la facoltà di controllo che agisce in questa sfera è proprio la fede, perché è come se controllasse in riferimento all'opposto, cioè i dubbi, la confusione e anche il non credere, la mancanza di fede, quindi. E l'indecisione. Yes, okay. And so, then again, the controlling faculty of effort exercises control in the sphere of exertion, namely that it then overpowers or overcomes its opposite in the form of laziness. Invece il fattore di controllo della energia opera, diciamo, nella sfera o nel campo dello sforzo, e quindi contrasta la forza opposta, che è quella della pigrizia. And certainly in the sphere of awareness, the controlling faculty of mindfulness, then overcomes or exerts certain exercises control over forgetfulness. Nella sfera invece della consapevolezza, allora qui c'è la presenza mentale che agisce contrastando di nuovo il suo opposto, che è la, come dire, il fatto di dimenticarsi, non so se c'è un sostantivo, dimenticanza. La dimenticanza. Mm. Or forgetfulness, that's it. It's not just very much. Right. And then in the sphere of non-distraction, the controlling faculty of concentration exercises control over its opposite, namely agitation. Quindi nella sfera della non distrazione opera la concentrazione, che quindi appunto fa questa azione di controllo contro l'opposto, che sarebbe l'agitazione. And certainly then, as for the fifth controlling faculty, namely that of wisdom, it exercises control in the sphere of discernment, and in particular with regard to delusion or ignorance. E quindi la sfera invece in cui opera il quinto fattore di controllo, che è la saggezza, è quello del discernimento, e le, come dire, i fattori opposti, quelli rispetto ai quali opera questo controllo, sono l'illusione e l'ignoranza. Now, when it comes to the building or the sharpening of the controlling faculty of faith, then there are two supporting conditions, one being joy and the other being joy and interest. Allora, ci sono due fattori che aiutano la costruzione, lo sviluppo o la, come dire, la il perfezionamento della facoltà della fede, e queste due condizioni sono la gioia e l'interesse. So the joy contributes certainly to a good part of the conquering power of faith, and certainly the interest contributes to constancy of faith. Quindi la prima di queste, cioè la, dunque, in questo momento, la gioia, ha la funzione di rafforzare il potere di conquista della fede. Invece la seconda condizione, che è l'interesse, favorisce la continuità della fede. No. Very important, certainly in respect to the five controlling faculties, is that they are that they must be in balance, or their balance. È molto importante per quanto riguarda questi cinque fattori di controllo che siano in equilibrio tra di loro. And so, when this balance of the faculty is given, then the attainment of the Dhamma is almost assured. Quando si riesce a trovare, a raggiungere questo equilibrio tra i cinque fattori, allora il raggiungimento del Dhamma è quasi assicurato. And also the Dhamma can be attained relatively quickly. E il Dhamma può essere ottenuto in maniera relativamente breve. Now, what goes or what we can derive from this is when the controlling faculties are not well balanced, then attainment of the Dhamma will not be that easy. E viceversa, quando queste facoltà di controllo non sono ben equilibrate, allora l'ottenimento, il raggiungimento del Dhamma non sarà così facile. Now, what happens when one of the controlling faculties is strong and suddenly the others are weak? The answer to this is that the other weak controlling faculties cannot properly perform their respective functions. Cosa succede quando una facoltà di controllo è più forte rispetto a tutte le altre? Allora, questo significa che le altre facoltà di controllo, che appunto sono indebolite, non riescono a eseguire bene la loro funzione. So for instance, when the faculty of faith is stronger than the others, and then the faculty of energy cannot perform its function of exerting, and the faculty of mindfulness its function of establishing. Quindi quando la facoltà della fede è troppo forte, allora per esempio le altre facoltà come quella dell'energia è troppo debole, non può esercitare la sua funzione del mettere sforzo, così come la facoltà della consapevolezza non è, è anche indebolita, e quindi non può eseguire la sua funzione, che è quella di stabilizzare. And then the faculty of concentration cannot perform its function of not distracting. La concentrazione non può eseguire la sua funzione, che è quella della non distrazione. And the faculty of wisdom cannot perform its function of gaining understanding. E quella della saggezza non può svolgere la funzione che è quella della comprensione. Now, there's a beautiful example from the time of the Buddha, namely that of the lute player Sona. Sì, c'è un bel esempio a questo riguardo che si riferisce a un episodio dei tempi del Buddha e riguarda il suonatore di liuto che si chiamava Sona. And this Sona was apparently striving very hard to gain the Dhamma, but he could not. Questo Sona stava facendo proprio del suo meglio, cioè stava mettendo molto sforzo per ottenere il Dhamma, ma non ci riusciva. And so one day the Buddha became aware of this particular situation, and then reminded Sona that when he, as a layperson, when he still was a layperson, and he was a player of the so-called veena, so the lute, and at that time, when the strings were either overstrung or overlax, the sound or his instrument would not sound properly. Allora, il Buddha è venuto a conoscenza di questa situazione. Ha parlato con Sona e gli ha ricordato che quando lui era ancora un laico e quindi suonava il suo strumento, se le corde di questo liuto, chiamato veena, se erano troppo tese o se erano troppo molli, non avrebbero prodotto il suono appropriato, il suono giusto. And so, becoming aware of the fact that exerting too much energy or effort leads to restlessness, and being overlax leads to idleness, then Sona was able to balance his controlling faculties, and in the end he did become an arahant. E quindi comprendendo questo fatto, e cioè che il troppo sforzo portava all'irrequietezza della mente e il troppo lassismo portava invece alla pigrizia, allora riuscì ad equilibrare queste due facoltà e divenne poi un arahant. Now, from a meditator's point of view, you might ask, well, how do I achieve, how do I bring about this balance of the five controlling faculties? Come meditante potreste chiedervi, ma com'è che allora riesco a raggiungere questo equilibrio delle cinque facoltà di controllo? And the answer to this is simply by way of trial and error. La risposta a questa domanda è semplicemente attraverso un meccanismo di prova ed errore, tentativo ed errore. And so you practice as best as you can, and then you realize that you're overdoing it in one way or another, and it's not working. So let's say you're making too much effort, and you get all restless. So with this, you realize this is not working, and with this, then next time around, you will reduce your effort a little bit, so that it's more balanced. Quindi immaginiamo che appunto cominciate a meditare, fate del vostro meglio, però vedete che state mettendo troppo sforzo, che questo produce dell'irrequietezza. Allora la prossima volta provate a ridurre un pochino lo sforzo e vedere se la mente si calma un pochino. Provate, fate dei tentativi. Or you might find that suddenly you are very concentrated, maybe even too concentrated, and suddenly this thing is suddenly leading to sleepiness, and suddenly so this certain case you realize you need to reduce the concentration a bit and also maybe increase the effort. Oppure state mettendo della concentrazione, forse troppa concentrazione, e questa provoca della sonnolenza. Allora anche in questo caso potete modulare, diciamo, la concentrazione che mettete nella pratica e invece aumentare un po' lo sforzo, l'energia. Now, in the context of the five controlling faculties, the second volume of the Patthisamrita Magga, namely the path of discrimination, has some really valuable advice to give. Quindi il Patthisamrita Magga, cioè il sentiero della discriminazione, nel secondo capitolo ha delle cose molto interessanti da dire rispetto a queste cinque facoltà di controllo. Namely, 15 ways to purify the controlling faculties. E parla di 15 modi per purificare le cinque facoltà di controllo. So, to give you one example from the Patthisamrita Magga, when one avoids faithless persons, cultivates and frequents and honors faithful persons, and reviews suttas that inspire confidence, the faith faculty is purified in the meditators in these three aspects. E quindi se un meditante non frequenta persone prive di fede e piuttosto frequenta invece e onora anche persone che hanno fede, inoltre se legge dei sutta che sono di ispirazione, allora queste tre cose insieme aiuteranno a purificare la sua facoltà di controllo rispetto alla fede. Then along the same line, we purify our controlling faculty of effort by avoiding idle persons and by cultivating and frequenting and honoring energetic persons and reviewing discourses that or reviewing the right endeavors. E quindi allo stesso modo, se vogliamo purificare la facoltà di controllo dello sforzo, allora frequenteremo persone che non sono pigre, allora, eviteremo di frequentare le persone pigre e invece frequenteremo le persone energiche e prive di pigrizia, e allo stesso modo leggeremo dei testi che in qualche modo sottolineano la qualità dello sforzo. Yes. And suddenly then the same aspects then apply to the remaining controlling faculties of mindfulness, of concentration and wisdom. E lo stesso vale poi per le altre tre facoltà di controllo, cioè la consapevolezza, la concentrazione e la saggezza. So these points are quite practical. Questi sono dei punti abbastanza pratici. Now, then in that same Patthisamrita Magga, it's the fourth treatise, section 4, the way to develop them is being discussed. E poi sempre nel Patisambhida Magga viene anche spiegato qual è il modo per sviluppare queste facoltà di controllo. And certainly it is actually quite simple, namely by abandoning non-faith, one develops faith. And so, when one is developing the faith faculty, one is abandoning the non-faith. In realtà sono istruzioni molto semplici, quindi per sviluppare la fede occorre abbandonare la non fede. So, when you abandon idleness, then automatically you are going to then increase your effort. E quando si abbandona, come dire, l'inerzia o la pigrizia, automaticamente questo aumenterà il vostro sforzo. And so again, when you mete out inattention, heedlessness, negligence, and certainly so on, the result is going to be that your mindfulness is going to develop. E allo stesso modo, quando abbandonate la distrazione, la non attenzione, allora automaticamente si svilupperà la consapevolezza. And certainly then the same points apply to the remaining two controlling faculties. E le stesse istruzioni valgono poi per le altre due facoltà di controllo. Now, the five controlling faculties are being mentioned in the Visuddhi Magga, namely its 20th chapter and section or paragraph 21. And there's also a discussion about how to strengthen those, or how to sharpen those controlling faculties. Anche il Visuddhimagga parla delle cinque facoltà di controllo, precisamente nel capitolo 20, paragrafo 21, e lì dice anche come sviluppare ulteriormente queste facoltà, addirittura come acuirle, come renderle più, come si può dire, più forti, altre parole, più acute. And certainly so, these instructions are given in particular in the context of the first insight knowledge. And there it says, meditators who do not as yet gain the first insight knowledge, then for those it would be recommendable to sharpen the controlling faculties in nine different ways. Si danno queste istruzioni relativamente alla prima conoscenza dell'insight, dicendo che per le persone che non hanno ancora raggiunto questa prima conoscenza dell'insight, sarebbe molto utile, come dire, sviluppare e quindi acuire queste cinque facoltà di controllo. Now, we won't have the time to mention each and every of those nine ways of sharpening the controlling faculties. Sì, dimenticavo di dire che sono nove questi modi per, diciamo, perfezionare, ecco, le facoltà di controllo, ma non abbiamo tempo per vederle tutte. And hence, we're going to discuss only the ones that are most relevant to you at this point. E quindi discuteremo o spiegheremo solo quelle che sono più rilevanti per voi a questo punto. So, the second way of strengthening or sharpening the controlling faculties is to practice with care and respect. Allora, il secondo modo per perfezionare le facoltà di controllo è di praticare con cura e rispetto. Oh, the text says literally in that occupation of observing or contemplation formations, one makes sure of working carefully. Letteralmente il testo dice che in questo lavoro di contemplazione delle formazioni uno si assicura di lavorare working carefully. Attentamente, con attenzione, of working carefully. Carefully, yes. Now, the point is that, you know, the first point here is to treat one's own practice with utmost reverence and meticulousness, or we could say, you know, with utmost care. Quindi qui si tratta di occuparsi della propria pratica con la massima cura, con meticolosità, con attenzione. And so, you know, obviously there are, you know, there can be huge differences in how meditators deal, or the attitude that meditators have towards their own meditation practice. So some might treat it as something somewhat not that significant. Well, one does this for social reasons or so, but there's not much more commitment to it. Ci sono vari modi e vari atteggiamenti diversi che i meditanti hanno nei confronti della propria pratica. Per esempio, alcuni potrebbero vederla come una cosa non troppo significativa, che si fa solo così per motivi sociali, ma non gli danno così tanta importanza. And then, on the other hand, certainly we have those who have already understood the importance of the practice and who consider this mindfulness practice as the most important thing in their life. Altri invece che hanno capito il valore della pratica e che considerano questa pratica della consapevolezza come la cosa più importante della loro vita. And so as a result of this, when such meditators come on a retreat, as soon as they arrive at the retreat center, they start being mindful. E come risultato di ciò, appena questi meditanti arrivano a un centro di meditazione per un ritiro, cominciano subito ad essere consapevoli. And in Burma, there's been many foreign meditators who've kept up their mindfulness until the very last day up to the airport. E ci sono in Birmania dei meditanti occidentali che sono riusciti a mantenere questo stato di consapevolezza fino proprio all'ultimo minuto dell'ultimo giorno, fino all'aeroporto prima di partire. Now, we'll undertake this meditation practice with care and respect only if we understand at least some of its benefits. Quindi riusciremo ad avere questa cura, questo rispetto per la pratica, solo se comprendiamo bene i benefici che derivano dalla pratica stessa. And so the benefits classically mentioned, classically and boldly mentioned by the Buddha, are given as the purification of beings, and then the overcoming of sorrow and lamentation, and then the destruction of physical pain and mental distress, and then entering of the right path, and finally the attainment of Nibbana. Quindi i benefici, così come sono stati dichiarati coraggiosamente dal Buddha, sono la purificazione di tutti gli esseri, purification of all beings, poi il superamento della tristezza, della lamentazione. Yes. Poi il superamento dei dolori fisici e anche della pena mentale, l'ingresso nel giusto sentiero e poi il raggiungimento del Nibbana. Sì, that's it. And so, with some amount of practice, you come to understand in a very direct manner that certain mental states are really causing you much suffering. And that with this then, you come to value and cherish the opposite state, namely of impurity of the mind, a mind in which wholesome mental states arise. Quindi con l'inizio della pratica uno si rende conto direttamente di quali siano gli stati di sofferenza della mente e quindi di conseguenza comincia a valorizzare invece la pratica, quindi gli stati mentali invece di purezza della mente e quindi gli stati mentali salutari. And Satna, so with this, knowing, understanding, the importance of the purification of the mind, then you will want to develop more and more wholesome mental states. E quindi, riconoscendo questi benefici che vengono con la purezza della mente, uno vorrà sviluppare sempre di più questi stati mentali salutari. Now, once you've come to cherish the purity of the mind, and based on this, the happiness that arises, then you quite naturally will want to do the practice really carefully and giving much attention to it. Quindi quando uno riceve questi benefici dalla purificazione della mente e dalla felicità che ne deriva, allora uno si applicherà alla propria pratica in maniera molto attenta, con molta cura. And so then you might be mindful even of minute activities such as the opening and closing of the eyes. Allora uno potrebbe poi sviluppare la consapevolezza al punto di essere appunto attenti anche alle attività più piccole, più minute, come per esempio l'aprire e il chiudere degli occhi. And certainly the venerable Sadhu Pandita of Burma, when he has a serious meditator in front of him during an interview, might indeed recommend that the meditator include the opening closing of the eyes in his practice of mindfulness. E effettivamente il venerabile Upandita della Birmania, se ha davanti a lui un meditante serio durante i colloqui, potrebbe anche suggerirgli di comprendere, di includere nella sua pratica l'osservazione, quindi la consapevolezza degli occhi che si aprono e si chiudono. Now, the same thing goes for very simple activities such as the opening or closing of a door. Quindi ci possono essere anche altre attività molto semplici come aprire e chiudere una porta. And so in the text some very good examples are being given for this care and respect. And so well known is one illustration that comes from the Samyutta Nikaya, the Buddha making up an illustration when he's giving a discourse to some of his disciples, who apparently were practicing in a somewhat sloppy manner, and so he speaks of them, or he speaks to them, of a man who was thought to have committed some offense, and then the king of the country ordered another person to go to walk behind this man, who then had to carry a bowl full of oil to the brim, full of oil, and suddenly then cross through an audience while the audience was enjoying a show of some dancing girls. Allora, nei testi si parla anche di questa pura attenzione che va posta riguardo alla pratica, e nel Samyutta Nikaya viene raccontato proprio un episodio. Anzi, il Buddha che racconta questo episodio a un gruppo di suoi discepoli che avevano una pratica molto, erano molto trasandati nella loro pratica, e parla, il Buddha gli porta l'esempio di una persona che viene accusata di qualche reato, e il re lo costringe a camminare attraverso due gruppi di persone, quindi in mezzo a una folla di persone che sta guardando uno spettacolo con delle danzatrici, e questa persona deve portare sul capo una scodella piena di olio bollente, e quindi mantenere l'equilibrio. Yes. And if that man were to spill just one drop of oil, then his head would be cut off by the person following him with a long sword. Dietro di lui c'era un'altra persona con una lunga spada, e se la persona davanti con la ciotola di olio bollente avesse fatto cadere anche una sola goccia di olio, la persona dietro gli avrebbe tagliato la testa. And so in this illustration, the carrying and carrying the pot of oil on the head then stands for a balance and centeredness of one's bodily activities carried out with mindfulness. Allora, questa metafora sta a significare questo, cioè il mantenere in equilibrio questa ciotola piena di olio sulla testa corrisponde all'equilibrio e alla stabilità che una persona deve avere quando sviluppa la consapevolezza delle sue azioni fisiche fatte con il corpo. And suddenly the extremely careful behavior of the man carrying this pot of oil on his head then corresponds to a meditator who is well established in present moment awareness of the body. E quindi l'attenzione che deve porre questa persona che cammina con la scodella piena d'olio in testa, allora questo corrisponde invece all'attenzione che il meditante deve prestare rispetto alla sua pratica consapevolezza, di nuovo in riferimento agli oggetti del corpo. And so, no, obviously, this man who had to carry a pot to the brim full of oil had to be so focused on that pot on his head and on his body that obviously he did not have much time to watch the show that was going on. E quindi questo uomo era talmente focalizzato, talmente concentrato su sul mantenere in equilibrio questa ciotola di olio sulla testa, che non aveva il tempo per distrarsi e guardare lo spettacolo che stava avvenendo intorno a lui. Ecco, faccio una piccola integrazione a quello che ho detto prima. Quindi questa attenzione corrisponde anche allo sviluppo dell'attenzione momento dopo momento che uno deve praticare nell'osservare gli oggetti fisici. When you as a meditator, when you continuously aware of the various certain objects occurring in the object and in the body, then the natural result of this will be sense restraint. Quindi quando un meditante presta questa attenzione continua riguardo a tutti gli oggetti che sorgono a livello del corpo, allora il risultato sarà questa sorta di contenimento dei sensi. And this of course applies especially to the walking meditation. E questo si applica soprattutto alla meditazione camminata. Now, another example is being given for care and practicing with care and respect, namely that of crossing a rope bridge. Un altro esempio che viene fornito rispetto al praticare con cura e rispetto è il fatto di dover attraversare un ponte sospeso, si dice, di corde, tipo quelli tibetani si chiamano. And so just imagine there's a river way underneath and with a really strong current. So if you misstep just once, you might end up falling into the river. Allora immaginate appunto questo ponte sospeso su un fiume. E il fatto che se mancate o se mettete male il piede, insomma, fate un passo sbagliato, potreste cadere nel fiume ad un'altezza insomma abbastanza and so, rilevante. And so obviously then when crossing this bridge one will do so with utmost attention, paying attention to every step, next step that one is taking. Quindi ovviamente nell'attraversare questo ponte la persona sarà molto molto attenta a dove mette i piedi, insomma, a un passo dopo l'altro. And so the same kind of attitude we need to bring to our meditation practice. E dobbiamo trasferire lo stesso tipo di atteggiamento nella nostra pratica di meditazione. And suddenly, easily we may think, oh, never mind if I'm a little bit absent-minded for a couple of seconds, or who knows, who sees. But the mind will take this as a wonderful opportunity for unwholesome mental states to arise. Quindi voi potreste pensare, ma sì, che male fa essere distratti anche per un minuto o due, tanto chi mi vede, chi se ne accorge. Però la mente può approfittare proprio di questa pausa, diciamo, nell'attenzione per lasciare entrare degli stati mentali non salutari. Now, to work with certain care and certain respect is certain a quality that is important not only for us on retreat, but also outside of a retreat. Quindi questa qualità, questo comportarsi con cura e rispetto non vale solo riguardo alla nostra pratica qui in ritiro, ma anche fuori nella nostra vita. Imagine you were to be a dentist. Immaginate se fosse un dentista. And so one client after the other comes, and then you have to work on the teeth of your clients. And if you're absent-minded just for a second or two, and you drill in the wrong spot, the client might end up suing you. Allora immaginate appunto che arrivano i vostri pazienti uno dopo l'altro e se voi non siete assolutamente attenti a quello che state facendo, allora potreste trapanare nel posto sbagliato e alla fine questo paziente potrebbe anche denunciarvi. Or, to give you another example, imagine you were a brain surgeon. Oppure per dare un altro esempio, immaginate di essere un chirurgo del cervello. And if a brain surgeon makes a wrong cut and he or she cuts in maybe slightly just one millimeter in the wrong place, this may have long-term consequences for the patient. The patient may end up paralyzed in certain parts of the body. E quindi se questo microchirurgo, diciamo, dovesse fare anche un piccolissimo errore e tagliare nel posto sbagliato, questo potrebbe avere delle conseguenze ovviamente gravissime sul paziente, che potrebbe anche rimanere paralizzato. And so, many years ago I met a Burmese brain surgeon who is now the head surgeon for all brain surgeons in Hong Kong. And he said the meditation practice back in Burma very much helped him to be so focused during his work. Because for hours and hours he has to work on one patient at a time. Ho conosciuto una volta un chirurgo che operava sui cervelli in Birmania, un ritiro, poi è diventato il capo di tutti i chirurghi, come si chiamano? Chirurghi del cervello? Oppure hanno un nome specifico? Neurochirurghi, si dice. A Hong Kong, e lui riferiva che la pratica di meditazione che aveva fatto in Birmania gli era stata di grande aiuto nel suo lavoro, perché lui deve stare ore e ore a operare sui cervelli delle persone e quindi deve essere molto focalizzato su noi. Yes, right. Now, a good example for practicing without care and respect, so for careless and disrespectful practice, is the following. A new meditator comes into the center And then does the registration, and then goes towards the meditation hall. And in front of the meditation hall, the person just kicks away the shoes, and they fly all over the place. Allora, un esempio invece per il contrario, per un tipo di, come dire, un atteggiamento non di cura e di rispetto riguardo alla pratica, quindi un atteggiamento distratto. Può essere quello di un meditante che viene a un ritiro, fa la sua registrazione, poi arriva prima di entrare nella sala di meditazione e butta le scarpe di qua e di là in maniera molto disordinata. Yes. And so, another negative example would be an example for careless and disrespectful practice when taking a meal. So let's say there's a meal with soup, and then there's while taking the soup, it's one spills it all over the place. Un altro esempio può essere, appunto, sempre in un ritiro, durante il pasto viene servito una minestra e uno, anziché mangiare la minestra con attenzione e cura, la versa dappertutto. And so kindly, in your meditation practice, don't be messy. E quindi venerabile invita a non essere, come dire, disordinati, sì, nella vostra pratica meditativa. No, superficiale. Now the next aspect, next way of sharpening the controlling faculties, is by given as persevering continuity of mindfulness. E quindi un altro, come dire, istruzione riguardo a questo perfezionamento delle facoltà di controllo e la perseveranza e il sviluppare la continuità nell'attenzione. Now, so the main point here is, as mentioned already yesterday and the day before yesterday, to maintain that continuity of mindfulness. Quindi qui il punto è, così come abbiamo già detto ieri e l'altro ieri, di mantenere questa continuità nella consapevolezza. Now, there are several things you can do to help the situation. Sono diverse cose che si possono fare per aiutare la situazione. Namely, try to do one thing or one activity at a time, and not two or three at the same time. Not this multitasking. Cercate di fare una attività per volta, non due o tre contemporaneamente, quindi non operate in quello che adesso si chiama multitasking. So a negative example would be during a meal, while you are chewing some food, your hand is reaching already for maybe the banana, and you start unpeeling it, and then with your eyes you're looking around and seeing what the other meditators are doing. Un esempio di questo può essere, appunto, durante un pasto, mentre voi state masticando il vostro cibo, non avete ancora ingoiato, ma siete già lì che vi allungate per prendere una banana, e contemporaneamente state anche guardandovi in giro per vedere quello che fanno gli altri. Then, another way of improving the continuity of mindfulness is when changing your posture in the sitting meditation, try to break down the movements into single units and then note each unit with utmost care. Un altro modo per sviluppare questa continuità dell'attenzione è quando cambiate la vostra postura. Allora provate a suddividere il movimento in varie unità e seguire ogni unità attentamente e con cura. And certainly then, obviously, we have, in order to be really mindful from moment to moment, we have no more time for much thinking, analyzing, and reflections, planning, and the like. Quindi quando siamo presi con questa attività del essere consapevoli attimo dopo attimo, allora non abbiamo molto tempo per altre attività come per esempio il pensare, il ragionare, l'analizzare, il fantasticare, eccetera. And so, in the old days, before the invention of matches and gas lighters, one had to light a fire, cause a fire by rubbing maybe two sticks together, or taking a bow and suddenly then putting a stick in between, and suddenly then there's a depression in a wood, we put some shavings in there, and then we move the bow, which then causes the stick to turn a lot. This causes friction, and eventually it causes friction heat, and eventually some ignition is there. Allora, tempo fa, prima dell'invenzione dei fiammiferi o degli accendini, per accendere un fuoco era necessario sfregare due bastoni oppure utilizzare un altro sistema che con un archetto e un bastone in mezzo, poi c'era una sorta di una conca con dentro una depressione, comunque un foro con dentro dei truccioli di legno, e poi sfregando o sfriggendo avanti e indietro questo archetto con il bastone, allora si creava una frizione, la frizione creava calore e il calore poi provocava il fuoco. Yes, right. And so you can create fire, cause fire only when you rub continuously. E quindi questo fuoco può essere creato solo se si sfrega continuamente, senza interruzione. Yes, right. O i bastoncini oppure quest'altro sistema. So if you rub those that bow, if you move the bow with a stick for, let's say, half a minute, and then you stop and you start thinking about something unrelated, and then you start moving the bow again, you will not be able to bring about some fire. Quindi se si comincia appunto a muovere questo arco, diciamo così, per creare il fuoco per qualche minuto, poi si interrompe, si comincia a pensare ad altre cose, poi si ricomincia di nuovo, beh, non si riuscirà a creare questo fuoco. Accendere il fuoco. The same thing goes for the meditators. If meditators are not continuous with their mindfulness practice, then they will not be able to cause the fire of wisdom to ignite. Allo stesso modo, se un meditante non è continuo, non sviluppa questa continuità nella pratica della meditazione, non riuscirà a accendere questo fuoco della saggezza. Now, during the first couple of days of a retreat, maybe even let's say 2 weeks or so, meditators need to be reminded over and over again, please try to be mindful. But later on, when the practice is coming along quite nicely and good results are there, then meditators understand from their own practice the importance of the continuity of mindfulness, and then they'll do it of their own accord. Inizialmente, i primi giorni di un ritiro, ma anche le prime settimane di un ritiro, è necessario ricordare ai meditanti di sviluppare questa continuità nella loro pratica. Ma poi quando la pratica diventa un pochino più regolare, solida, e si vedono i risultati, allora i meditanti da soli riusciranno a praticare in maniera appunto così continuativa, non ci sarà più bisogno di ricordarglielo. And so, we may think that we are quite continuous with our mindfulness, but certainly in the end it's not all that great, and we really need to work on it, we need to improve it more and more and more and more. Noi possiamo pensare di essere continui nella nostra pratica, ma in realtà non è sempre così e abbiamo bisogno di migliorare sempre. And even if you're quite mindful from minute to minute, it may still mean that on a second level there are gaps in your mindfulness. Quindi anche se voi siete consapevoli minuto dopo minuto, però questo significa che ci sono ancora comunque degli spazi tra un momento di consapevolezza e l'altro. And so, even if you happen to be mindful from second to second, on a level of microseconds or Googles, you might still have some gaps there. E se siete consapevoli anche secondo dopo secondo, anche qui c'è un livello ancora più, come dire, va ancora più minuto, microscopico, ci sono i microsecondi e quindi potete ancora migliorare l'attenzione, appunto, la continuità dell'attenzione. Now, in the text, there is a nice illustration for discontinuous mindfulness practice, namely that of a chameleon. E nei testi viene dato anche qui fornito un esempio per questa mente distratta e non continua, ed è portato come esempio, appunto come metafora, quella di un camaleonte. Yes, and such a chameleon has a strange way of moving around, and so all of a sudden it will rush forward, then stop, look around, gaze for a while, then again all of a sudden it will move a little bit further, and one doesn't quite know, or then it will stop again it will look around, maybe looking for a mate or so, and suddenly then again it will move further. So it will never travel in one, or reach its destination in one go. Allora, il camaleonte ha un modo molto strano, molto particolare di procedere, e cioè a scatti, cioè va avanti molto velocemente per un certo tempo, poi si ferma improvvisamente, si guarda in giro, magari cerca del cibo, cerca una compagna, un compagno, e poi riprende di nuovo, poi di nuovo si ferma, si guarda in giro, fa qualcos'altro, poi... E quindi è come se il camaleonte non arrivasse mai alla sua destinazione con uno scatto unico, è sempre interrotto. Now, some or other chameleons manage to survive in this way, but meditators whose mindfulness is discontinuous may or may not survive. I camaleonti riescono a sopravvivere in questo modo, ma i meditanti che hanno una mente che si comporta come un camaleonte potrebbero invece non sopravvivere. Now, the seventh way of sharpening the controlling faculties is or has to do with courageous effort. Il settimo modo per perfezionare le facoltà di controllo ha a che vedere con lo sforzo coraggioso. And the Visuddhimagga states this as follows, namely, one establishes disregard of body and life. One establishes what? Disregard. One establishes disregard towards body and life, towards one's own body and life. Allora, il Visuddhimagga lo descrive in questo modo. Allora, una persona praticamente sviluppa una sorta di disprezzo, diciamo, per tutto ciò che riguarda il corpo e la mente. No, at home... I think I got it right. Disregards... Disregards with regard to... one establishes disregard with regard to body and life. So less regard for body and life. And life, quindi il corpo, non il corpo e la mente, ma il corpo è la vita. Cioè praticamente sviluppa un disinteresse per tutto ciò che riguarda il corpo e la vita. Distacco. No, disregard is more like disinterest. He's not interested in body, in his body. Yeah, somewhat like that. Less interested in paying less attention to, the whims and fancies of one's body. Sì, quindi non pone meno attenzione sui capricci, diciamo, del proprio corpo. So, at home, you know, when we're not on retreat, let's say we sit on a sofa, we sit there for 20 minutes, 30 minutes, maybe we're talking to some friends, and then some slight discomfort arises in the thigh, and immediately we change our posture. Quindi immaginiamo che siamo a casa, seduti sul divano, siamo lì da 20 minuti, stiamo parlando magari con un amico, viene un senso di, così, di disagio alla coscia, e allora immediatamente noi cambiamo posizione. Yeah, right. Or maybe there might be the slightest sense of hunger arising, and immediately we rush towards the fridge and help us and help ourselves. Oppure ci viene un leggero appetito e immediatamente noi ci fiondiamo verso il frigo per prendere qualcosa da mangiare. Okay. Now, as a meditator, all of this changes. E come invece meditante tutto questo cambia. And so when we sit in meditation, we try to do so without moving much for an hour at a time. Quando sediamo in meditazione, cerchiamo di farlo senza muoverci per un'ora intera, so per even, volta. Even though there may be an intention or an impulse to change the posture because of some discomfort developing in the thigh, we still don't give in to this right away. Quindi anche se c'è l'impulso, l'intenzione di muoverci, di spostare il corpo per via di questo senso di fastidio che abbiamo nella coscia, beh, noi non lo facciamo immediatamente. Or during the practice, if maybe some sense of hunger arises, then we don't immediately go to the kitchen and help ourselves to some food in the fridge. Oppure se durante la pratica ci viene questo leggero appetito, non è che andiamo immediatamente in cucina a servirci da soli. And instead what we do is we simply take that sensation of hunger as another object of observation, and then we will find sooner or later it will disappear. Quello che facciamo invece è prendere questo senso di appetito, di fame, come un altro oggetto da osservare, e di lì a poco questo senso di appetito appunto sparirà. Now, when we practice, or we, since we all have, as part of our human birth, we all have a body, and we might as well then try to extract maximum benefits from this body as long as it is around and alive. Quindi tutti noi abbiamo un corpo perché è, come dire, collegato con la nostra condizione umana, allora tanto vale utilizzarlo al meglio fino a quando questo corpo possiede una vita. So, the things to be extracted from the body are things like observing 5 precepts or 8 precepts, and practicing restraint of the senses, and then that's maybe not that good of an example, but developing the 5 controlling faculties, and causing the enlightenment factors to arise, and even further gaining Nibbana. E quindi com'è che estraiamo le cose migliori dal corpo, quindi utilizziamo al meglio il nostro corpo? Beh, per esempio rispettando i 5 precetti o sviluppando le facoltà di controllo, nel caso l'ultimo anche ecco sviluppando i 7 fattori di illuminazione, e poi alla fine ovviamente raggiungendo il Nibbana. Yes, right. And so we might as well try, as long as we have a body and we're alive, we might as well try to get something out of this body in terms of Dhamma practice. E quindi siccome abbiamo un corpo e abbiamo una vita, allora tanto vale cercare di ottenere il massimo possibile da queste condizioni in termini di pratica del Dhamma. So, as long as we are healthy and alive, then it's worth putting in the effort. Quindi finché siamo in buona salute e siamo vivi, allora vale la pena di mettere dello sforzo. Now, there is a rather not challenging, but moving passage in the Majjhima Nikaya, which is known as the four summaries of the Dhamma. Quindi nel Majjhima Nikaya c'è un passo, c'è un brano che definisce un po' commovente addirittura, che riguarda Four summaries of the Dhamma. I quattro riassunti del Dhamma. And so, the first one, the first of these four summaries is life in any world is unstable, it is swept away. And then in brackets, towards aging and death. Quindi il primo è che la vita in qualsiasi mondo è instabile ed è spazzata via, e tra parentesi si dice attraverso l'invecchiamento e la morte. And certainly so, all of us, are we getting younger and younger day by day? Or are we getting older and older? You're getting older. Allora, la domanda è, ma noi stiamo diventando sempre più giovani, giorno dopo giorno, oppure stiamo invecchiando? So, for the most part, including myself, we are getting older and older, by the minute, by the second. Per la maggior parte tutti noi stiamo diventando sempre più vecchi ogni minuto, ogni secondo. And so, this being so, we might as well make good use of the time that we have left. Quindi essendo così, stando così le cose, tanto vale che facciamo buon uso del tempo che abbiamo, il tempo che ci rimane. Now, the second weakness of human existence is that life in any world has no shelter and no protector. E la seconda debolezza della condizione umana è che la vita in qualunque mondo non ha nessun riparo, non ha nessuna protezione. And so, when we meditate, we realize that not even our parents can protect us, and so we have to do the practice ourselves. And just like we have to do the practice ourselves, our parents also have to do the practice themselves. E quindi meditando veniamo a riconoscere il fatto che neanche i nostri genitori possono proteggerci, e così noi, e quindi noi dobbiamo fare la pratica da soli per nostro conto, e allo stesso modo i nostri genitori devono fare la loro pratica da soli, perché non ci si può proteggere a vicenda. Obviously our parents have given us some degree of protection, sure, but sooner or later they are going to pass away. And then there's no more protection. E sicuramente i nostri genitori ci hanno già dato una certa dose di protezione, però prima o poi anche loro moriranno, e quindi non avremo questa garanzia. So really the only protection that we have comes in the form of the Dhamma. L'unica protezione che abbiamo viene sotto forma del Dhamma. Now, the third weakness of human existence is that life in any world has nothing of its own. one has to leave all and pass on. Quindi la terza debolezza della condizione umana in qualsiasi mondo è che la vita non possiede nulla, tutto le proprietà che ha prima o poi le deve lasciare. And so, when death occurs, we all have to leave behind our material possessions and even the skills that we have acquired over the years, those we have to leave behind. Quindi quando giunge il momento della morte, noi dovremmo lasciare tutte le cose che abbiamo, che possediamo, e anche le abilità che abbiamo sviluppato nell'arco della nostra vita. And obviously all those who are near and dear to us, those too we have to leave behind. E dobbiamo lasciare indietro anche tutti i nostri cari. There's only one thing then suddenly we can take along, and suddenly this is our karma. C'è una sola cosa che noi possiamo portarci dietro ed è il nostro karma. Which means the results of our wholesome or unwholesome deeds. E questo significa i risultati delle nostre azioni salutari o non salutari. Now, the fourth weakness of human existence is suddenly given as life in any world is incomplete, insatiate, the slave of craving. Allora, la quarta debolezza della condizione umana è che la vita in qualunque mondo è incompleta, è insaziabile ed è schiava della brama. And suddenly, once we have something desirable, agreeable, then we will want more and more of the same. Quando abbiamo una cosa desiderabile o piacevole, noi vorremmo avere sempre di più di questa cosa, averne sempre di più. Or after a while we get bored of what we have and then we start craving for something else, something different, something new. Ci annoiamo di quello che abbiamo, allora nasce il desiderio per qualcos'altro, qualcosa di nuovo. Now, we're running out of time, so let me end at this point by wishing may the various ways of sharpening the controlling faculties that have been mentioned, may they help you to indeed sharpen your controlling faculties, and may your controlling faculties get really keen, and thus may they contribute to the seeing of ultimate truth. Allora, termino qui il discorso di questa sera con l'augurio che queste indicazioni, queste istruzioni che sono state date possano aiutarvi a perfezionare le vostre facoltà di controllo, e che grazie appunto a questa loro forza voi possiate riuscire a vedere la verità ultima. And so, then seeing the ultimate reality of formations, may you let go of many wrong views, and then eventually may all of this lead you to the realization of the Dhamma. Quindi vedendo queste realtà ultime delle insite nelle formazioni, che voi possiate abbandonare le vostre visioni errate e che questo possa permettervi poi di raggiungere il Nibbana. And then say, okay.